Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Cosa è rimasto della sharing economy e della sua narrazione? L'emergenza coronavirus ha messo in ginocchio alcune delle sue realtà simbolo come Airbnb, Uber, WeWork. Solo una conseguenza delle limitazioni a viaggi, mobilità e lavoro in presenza o qualcosa di più? Ne parliamo tra pochissimo. Numeri da record per il Singles Day, il Black Friday in versione cinese, che quest'anno per la prima volta ha varcato i confini cinesi, scaldando i motori, per così dire, nell'anno del boom dell'e-commerce per Black Friday e Cyber Monday. 8 italiani su 10 si dicono pronti ad approfittarne. E poi dalla riscoperta dei classici ai nuovi titoli e boom per i giochi da tavolo, i giochi di società, giochi in scatola, antidoto analogico, diciamo così, alle nostre vite iperconnesse. In any company and in any organization you have in tutte le organizzazioni, in tutte le aziende avete due tipi di valute. Da una parte la valuta vera e propria del denaro, che ovviamente è importante perché il denaro ci permette di comprare merci, scambiare valori, è la valuta delle transazioni. Ma se nella vostra organizzazione le vostre relazioni si basano tutte sul denaro, non è di certo il modo in cui si può motivare le persone e l'organizzazione non farà tanta strada, perché in realtà c'è un'altra valuta importante ed è la fiducia. Trust is the currency of interactions. Io la vedo come la valuta dell'interazione, quindi non della transazione, ma dell'interazione. La fiducia fa in modo che le persone si aprano, che collaborino, lavorino insieme, innovino e mettano la loro fede nell'ignoto. E una delle cose più difficili quando si parla di fiducia è che queste cose possono essere in conflitto. A volte dobbiamo prendere certe decisioni, se crediamo nella fiducia dobbiamo sacrificare magari anche del denaro nel breve termine. Una delle cose particolarmente interessanti quando si parla di fiducia è che la capiamo e apprezziamo a pieno il suo ruolo solo quando questa viene meno. Così, qualche giorno fa, al World Business Forum di Milano, Rachel Botsman, esperta di tecnologie digitali, collaborazione e fiducia, autrice del bestseller What's Mine is Yours, quello che è mio è tuo, il saggio che ha anticipato e decodificato il boom della sharing economy. Un modello, quello della sharing economy, che ha dimostrato in questi anni tutti i suoi pregi, ma anche i suoi difetti, attraverso le sue piattaforme simbolo, da Airbnb a Uber e una serie di nuove definizioni. Community Economy è quella di Marta Mainieri, esperta di Community Design e Sharing Economy. Community Economy è anche il titolo del suo ultimo libro e della piattaforma collegata. Credo che la Community Economy sia l'evoluzione più interessante della Sharing Economy, nel senso che la Sharing Economy era soprattutto la condivisione di beni, di servizi che passava attraverso delle piattaforme, in alcuni casi digitali, in altri casi invece territoriali, ma che comunque rimaneva nell'ambito stesso del consumo. La collaborazione nella community economy passa da una dimensione di consumo invece a una dimensione organizzativa. Le persone si organizzano intorno a un valore comune, che può essere anche una passione, una frustrazione, un'idea, una condizione comune, e su quello creano una comunità che poi diventa un'impresa. E l'impresa mette al centro i bisogni della community, mette al centro le relazioni che crea con la community e il dialogo che crea con la community, e quindi la dimensione, diciamo, collaborativa esce da una dimensione di consumo a una dimensione prettamente organizzativa. E la community economy è l'insieme di tante organizzazioni che appunto mettono al centro della loro strategia di business la community. Quali sono le realtà simbolo della community economy? Molte tu le citi nel libro. Sì, alcune sono molto vecchie, ad esempio la più vecchia, la più pionieristica è sicuramente Avventure nel Mondo, che è un'agenzia di viaggio collaborativi, nel senso che organizza dei gruppi di viaggio, di persone che organizzano il viaggio secondo delle proposte che vengono dalla community stessa. Questa è la grossa differenza rispetto ad altre agenzie viaggio. Altre interessantissime aziende sono per esempio Scuola Zoo e We Road, che sono del gruppo One Day, agenzie che si rivolgono prevalentemente al mondo dei giovani della scuola secondaria superiore, Scuola Zoo, invece dei millennials, quindi dei trentenni We Road. Altre aziende sono Rocking Mill, ad esempio, che è un'organizzazione di musicisti che fanno concerti in gruppo e suonano tutti insieme a gruppi di mille, fanno dei concerti stupendi, almeno facevano, perché in questo momento ovviamente è più difficile. Però ci sono tantissimi altri anche gruppi Facebook, come non so, Retake, che è un gruppo che è cresciuto tantissimo, che ha tantissime persone, è nato a Roma per restituire un po' di decoro urbano alla città, e quindi fanno tantissimi eventi per la città, per pulire, sistemare le strade, abbellire le strade. Questo ad esempio è un movimento che nasce a Roma, ma che si è poi moltiplicato in tante altre città d'Italia. Ma ce ne sono tantissime, in tutta Italia ci sono piattaforme digitali, ci sono gruppi sui social, ci sono aziende più di prodotto, ci sono anche delle comunità che nascono intorno a dei territori molto, molto piccoli e molto specifici. Un'azienda strutturata su questo modello nasce necessariamente come tale o può essere anche l'evoluzione, la trasformazione di un'azienda in un periodo successivo? Nel mio libro io ho preso in esame soprattutto aziende che nascono già mettendo al centro della loro strategia di business la community, però questo è un modello che secondo me, soprattutto in questo momento in cui le relazioni sono così sfilacciate, è un momento che si presta questo approccio tantissimo anche alle aziende tradizionali. Se noi pensiamo a quante community ruotano intorno alle aziende, no? La community dei dipendenti, che probabilmente non è una ma è molte, no? Perché dipende, quali sono dipendenti che hanno certe caratteristiche piuttosto che altre, le community dei clienti, le community dei fornitori, cioè ci sono tantissime community che ruotano intorno all'azienda, soltanto che l'azienda continua a trattarlo molto spesso con un approccio di subordinazione, non riuscendo invece a pensarli come co-creatori di valore. Questa è la grossa differenza dell'approccio che noi proponiamo. Un'azienda tradizionale è difficile che si trasformi completamente in una comunità, ma è molto probabile che invece possa attivare delle community o comunque cambiare il proprio approccio relazionale con dei target molto specifici, cercando quindi di valorizzare alcuni gruppi e cercando di fare in modo che possano appunto co-creare insieme all'azienda stessa del valore e quindi produrre dei servizi e quindi co-gestire anche delle attività. Oggi le aziende sono chiamate ad assumere un ruolo molto più importante per certi versi rispetto al passato, non devono anche fare la loro parte di cambiamento, glielo chiedono i consumatori, glielo chiede il contesto, no? Glielo chiede il mercato, e attraverso questo approccio più community center io credo che riescano soprattutto a ricreare quella fiducia rispetto ai consumatori e, se vogliamo ancora chiamarli così, comunque ai cittadini, riescano ad avere quella spinta innovativa. No, perché la community comunque ti chiede sempre di cambiare, di non innovare, di adattarti al mercato, e avere un collegamento diretto con la propria community, con le proprie clienti, ti permette anche effettivamente di capire quali sono i bisogni e come adattarti. La sharing economy come nome, come quello che ci eravamo immaginato, come narrazione che ci eravamo immaginati quando è comparsa nel 2013, è sicuramente in crisi ed è sicuramente finita, ma l'importanza della collaborazione è più che mai attuale anche oggi. La data ufficiale è il 27 novembre, ma sono molti i retailer che lo hanno anticipato. Parliamo del Black Friday e della propensione degli italiani ad approfittarne, nonostante tutto, in misura maggiore rispetto ai vicini europei. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa, spazio anche alla riscoperta e al relativo boom dei giochi da tavolo e alle conseguenze americane sui consumi. Le tre tendenze che sulla scia della vittoria di Joe Biden influenzeranno brand, prodotti, comunicazione. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, come anticipato parliamo del Black Friday, il venerdì di sconti che dà il via allo shopping natalizio importato dalla tradizione americana, iniziativa che per molti retailer si estende ai giorni precedenti per arrivare fino al lunedì successivo, il Cyber Monday, dedicato alle offerte di elettronica online. Quest'anno il Black Friday cadrà il 27 novembre e gli italiani si dicono pronti ad approfittarne più di tutti i vicini europei e non solo. Lo rivela un'indagine firmata Shopify, la piattaforma per e-commerce più utilizzata al mondo, Paolo Picazio. Il dato è stato veramente sorprendente per quanto riguarda l'Italia. Infatti ben l'84% degli italiani prevede di fare acquisti durante il weekend del Black Friday e Cyber Monday. Un dato che è estremamente più alto se comparato con quelli di Stati Uniti, Francia, dove appena il 67% degli intervistati ha dichiarato di essere interessato a fare acquisti durante quel weekend, o l'Australia 61%, Germania 61%. Insomma, questo è qualcosa di eclatante, considerando che poi è una tradizione importata in Italia dagli Stati Uniti ed oggi è molto più sentita da noi rispetto che appunto in America. Questo gap secondo te perché? Perché gli italiani, come dire, partivano in svantaggio e la pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione e quindi alla fine corrono più veloci degli altri o per altri motivi? Stiamo correndo sicuramente più veloce degli altri. Noi quello che abbiamo visto accadere sulla nostra piattaforma è stato un incremento del 400% in più rispetto alla velocità normale con cui vengono creati i negozi online, e questo se compariamo con UK, dove è stato il 102%, è un dato 4 volte più alto. Quindi sicuramente la pandemia e il lockdown nella prima fase sono stati un incredibile acceleratore, non solo portando tantissimi consumatori online per la prima volta, ma portando soprattutto tantissime aziende online per la prima volta che hanno dovuto fare di necessità virtù. Siete andati ad indagare anche i settori e quindi i prodotti che gli italiani intendono acquistare. Come prevedibile, l'elettronica di consumo la farà da padrone in questo Black Friday Cyber Monday. Infatti il 56% degli italiani considerano di comprare qualcosa in questo settore, pari merito con l'abbigliamento, quindi il fashion anche farà la parte del leone durante questo periodo dell'anno. Focus sui trend. Crescite a doppia cifra per i giochi da tavolo, più 17% a fine ottobre rispetto all'anno scorso per giochi in scatola e puzzle, secondo i dati che ci ha fornito Assogiocattoli, in uno scenario di settore che risente comunque delle chiusure e delle limitazioni alla vendita nella grande distribuzione e nelle grandi superfici. Complice il lockdown, la limitazione della vita sociale e anche un certo ritrovato tempo in famiglia, i giochi da tavolo rappresentano una sorta di antidoto analogico, diciamo così, alle nostre vite iperconnesse a causa della pandemia tra lavoro, studio e tempo libero davanti allo schermo. Ecco, spiegate quindi le cause di un boom che fa da scenario ai casi che abbiamo individuato insieme a Carlo Ricciardi di Future Concept Lab. Ciao Carlo, ben trovato. Buonasera. Partiamo da una novità che si basa su un libro bestseller molto apprezzato. Sì, è tratto da Storia della buona morte per bambine ribelli di Francesca Cavallo, che ha venduto quasi 6 milioni di copie in 49 paesi. È uscito un gioco da tavolo che si chiama Sogni per bambine ribelli. È un gioco cooperativo per due o più giocatori dagli 8 anni in su. Qui tutti vincono o perdono insieme. Il gioco è stato realizzato da Cranio Creation, una casa editrice milanese che dal 2009, con le sue realizzazioni originali e i titoli importati, distribuisce i suoi giochi anche all'estero, dove registra la metà delle vendite, andando a competere con Mattel e gli altri giganti del settore. Il riconoscimento della qualità del lavoro svolto da Cranio Creation è testimoniato anche dal Toy Award, conquistato alla Fiera del giocattolo di Norimberga del 2020 e ricevuto per il gioco Mystery House Adventures in a Box, che propone l'esperienza di gioco di un escape room da tavolo in maniera molto originale e innovativa. Sicuramente un caso, una storia di eccellenza italiana. Passiamo ad un classico, un vero e proprio cult che non smette di stupire. Eh sì, perché quando si parla di giochi è d'obbligo citare Monopoli, che dal 1935 intrattiene le famiglie di tutto il pianeta. Secondo la Hasbro, azienda che lo distribuisce in 114 paesi, a marzo scorso le vendite di questo titolo sono quasi quintuplicate. Pur mantenendo le sue caratteristiche fondamentali, il gioco si è evoluto nel tempo, arricchendo le tavole degli appassionati anche con le sue edizioni speciali. Tra le ultime segnaliamo la versione al femminile intitolata Miss Monopoly, in cui per bilanciare il gender gap della vita reale, le donne a ogni passaggio dal via sono pagate più degli uomini e i giocatori, anziché investire in proprietà immobiliari, devono finanziare l'imprenditoria femminile. Monopoly Super Mario Celebration invece ha festeggiato il 35esimo compleanno dell'idraulico più famoso del mondo. A queste si è aggiunta una versione particolare, ossia Monopoly la rivincita dei perdenti, che cambia faccia e festeggia la sconfitta. I giocatori guadagnano denaro quando compiono azioni normalmente più frustranti del gioco, come andare in prigione, pagare l'affitto di una proprietà o andare in bancarotta. Per un Monopoly che aggiorna i suoi contenuti ci sono anche giochi da tavolo completamente nuovi che anzi veicolano nuovi temi, nuove sensibilità, quella ambientale per esempio, come il prossimo caso. Un gioco che si chiama Mariposas, ispirato ai ritmi della natura, è proposto in Italia da Genos Games e ideato da Elizabeth Hargrave, autrice di Wingspan, gioco di successo a tema ornitologico uscito l'anno scorso. Qui si gioca in tre stagioni seguendo le farfalle monarca nelle migrazioni tra il Messico e il Nord America. Al termine di ogni stagione vengono conteggiati i punti e il giocatore che riuscirà a gestire al meglio gli spostamenti delle proprie farfalle al termine della terza stagione vincerà la partita. In questo contesto i giochi da tavolo diventano anche uno strumento di marketing per celebrare un anniversario, riproporre un evento, arricchire la narrazione ad esempio delle serie TV. Basti pensare al fenomeno Dungeons and Dragons con Stranger Things oppure di film anche storici. Di quale film parliamo, Carlo? Sì, dalla suggestione cinematografica arriva il gioco Shining di Asmodee Italia, uscito scorso settembre in occasione delle celebrazioni per i 40 anni dall'uscita italiana del film. È adatto a giocatori dai 17 anni in su e questo gioco di sopravvivenza e suspense ci fa rivivere il famosissimo film di Kubrick, tratto dal romanzo di Stephen King, e ritrovare la inquietante atmosfera dell'Overlook Hotel attraverso illustrazioni molto curate e componenti come il portachiavi della celebre stanza 237 che diventa in questo caso un segnalino. I giocatori impersonano gli attuali custodi dell'hotel e devono riuscire a resistere all'influenza malvagia dello stesso, sopravvivendo almeno 4 mesi nella struttura prima di fuggire verso la salvezza con il gatto delle nevi. Abbiamo raccontato quindi un fenomeno di mercato, il boom di un prodotto che racconta sullo sfondo le trasformazioni di questo periodo. Carlo Ricciardi, grazie, alla prossima. Grazie a voi. Il consumautore. Ci sono eventi che per la loro portata trascendono i confini di settore, allungano la loro coda, per così dire, in ambiti apparentemente distanti. Ecco perché questa sera vogliamo parlare delle conseguenze della vittoria di Joe Biden nel mondo dei consumi. Lo facciamo come sempre in questo spazio con il sociologo Francesco Morace. Ben trovato, Francesco. Buonasera Maria Luisa. Tu hai individuato 3 tendenze che influenzeranno i consumi sulla scia delle elezioni americane e del loro risultato? Partiamo dalla prima. Sono tutte e tre tendenze che erano già sotto traccia o comunque già in atto, ma che subiranno una grande accelerazione. La prima sicuramente la sostenibilità. Una delle prime cose che Joe Biden ha dichiarato è che rientrerà nel protocollo di Parigi, e allora è chiaro che Europa e Stati Uniti insieme su questo tema dei consumi sostenibili avranno sicuramente una grande accelerazione. La tendenza numero due ruota intorno alla figura fortissima della vicepresidente Kamala Harris. Sì, è una figura fortissima. Io credo che forse per la prima volta avremo una vicepresidente ancora più incisiva del presidente, perché comunque è una figura femminile, basta guardare la biografia, che ha tutti gli elementi per poter ad esempio indicare consumi che sono, come tante volte abbiamo detto insieme, legati alla diversità, legata a una capacità di equilibrare, diciamo, le diverse culture. E lei da questo punto di vista non solo arriva da un mondo di immigrazione, ma arriva da un matrimonio misto, ecco, e quindi anche questa sua straordinaria energia, no? E poi il discorso che ha fatto, devo dire che davvero rimarrà negli annali, insomma, dei discorsi di ringraziamento della presidenza americana. Quindi sostenibilità, incisività del femminile e multiculturalità, e poi la rivincita, il riscatto della longevità. Il riscatto della longevità, che in un momento come questo, in cui i longevi, gli anziani, stanno pagando un prezzo così alto, è davvero un'indicazione molto forte. Joe Biden ha dalla parte sua questa straordinaria esperienza, che è di moderazione, ma non solo, perché lui in questi 40 anni di esperienza al Senato ha davvero attraversato tutti i grandi temi, mettendo in elemento la pazienza da un lato, ma anche la determinazione dall'altro. Quindi il grande contributo che questa generazione, diciamo pure dei boomers o comunque dei longevi, può dare, e che segna una possibile alleanza con i più giovani, che però hanno bisogno di guide. Ecco, su questo sicuramente ci sarà una grande valorizzazione di questa generazione. Grazie a Francesco Moracci e grazie a Paolo Corleoni in regia. Essere a Vere torna domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.